Intanto i profeti Aggeo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetarono ai giudei in Giuda e a Gerusalemme nel nome del Dio di Israele che era su di loro. Si alzarono allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, e cominciarono a costruire il Tempio di Dio a Gerusalemme. Con essi erano i profeti di Dio che li sostenevano. Vennero in quel tempo da loro Tattenai, governatore dell'Oltrefiume, Setar Boznai e i loro colleghi, e parlarono ad essi così: chi vi ha dato ordine di edificare questo tempio e costruire queste mura? Chi sono e come si chiamano gli uomini che alzano questo edificio? Ma sopra gli anziani dei giudei era lo sguardo del loro Dio. Quelli non li fecero smettere fino a che non si fosse inviato un rapporto a Dario e si fosse avuta una risposta in merito. Copia della lettera che Tattenai, governatore dell'Oltrefiume, Setar Boznai e i loro colleghi, i controllori che sono nell'Oltrefiume, inviarono al re Dario. Gli inviarono un rapporto in cui era scritto: al re Dario salute perfetta. Sia noto al re che noi siamo andati nella provincia di Giuda al tempio del grande Dio. Questo si sta edificando con blocchi di pietra e legname alle pareti. Il lavoro viene svolto con cura e procede bene tra le loro mani. Noi abbiamo interrogato quegli anziani e abbiamo domandato ad essi: chi vi ha dato ordine di edificare questo tempio e costruire queste mura? Abbiamo anche chiesto ad essi i loro nomi per farteli conoscere, scrivendo il nome degli uomini che sono loro a capo. Ecco l'informazione che ci hanno dato: noi siamo i servi del Dio del cielo e della terra, ed edifichiamo il tempio che nel passato era rimasto in piedi per lunghi anni. Un grande re di Israele l'aveva alzato e adornato. Ma da quando i nostri padri provocarono l'ira del Dio del cielo, egli li abbandonò in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, il Caldeo. Egli distrusse questo tempio e deportò il popolo a Babilonia. Però, nel primo anno di Ciro, re di Babilonia, il re Ciro dette ordine di edificare questa casa di Dio. Anche gli utensili in oro e argento della casa di Dio, che Nabucodonosor aveva tolto dal tempio di Gerusalemme e portato al tempio di Babilonia, il re Ciro fece togliere dal tempio di Babilonia e consegnare a uno di nome Sesbassar, che aveva costituito governatore, dicendogli: prendi questi utensili, va, portali al tempio di Gerusalemme, e il tempio di Dio venga riedificato nel suo luogo. Allora questo Sesbassar venne e pose le fondamenta della casa di Dio a Gerusalemme. Ebbene, da allora sino ad oggi essa si va costruendo, ma non è ancora terminata. Pertanto, se così piace al re, si facciano ricerche nell'archivio reale costì a Babilonia, se per caso sia stato dato un ordine da parte del re Ciro perché fosse costruita questa casa di Dio a Gerusalemme, e la volontà del re in proposito la si faccia pervenire a noi.